Il punto di Stefano Folli. La domanda che sorge spontanea è: come potrà questo Parlamento, che non è in grado di eleggere due giudici della Corte Costituzionale, garantire il normale percorso di una legislatura che dovrebbe attuare importanti riforme istituzionali, compresa quella della giustizia, ed eleggere il prossimo capo dello Stato? C'è sempre la possibilità che lo stallo intorno ai due candidati, Violante e Bruno, si sblocchi all'improvviso, ma la realtà al momento dice una cosa diversa. Parla di un Parlamento che non ascolta l'appello di Napolitano e che ha visto ieri sera Renzi e Berlusconi non troppo impegnati a difesa dei loro candidati. Anche questo è un dato interessante. Solo il Presidente della Repubblica ha indicato con chiarezza la ferita all'equilibrio istituzionale che deriva da una Corte che agisce senza essere completa nei suoi ranghi. Viceversa, i due tutori della legislatura, diciamo così, cioè Renzi e Berlusconi, sembrano preoccupati soprattutto della riforma elettorale. Ma il nodo dei giudici è adesso e va risolto al più presto, altrimenti le promesse di proseguire fino al 2018 si riveleranno ancora più inconsistenti di quello che sembrano.